Combat. Oggi mezzogiorno e 12, rassegna stampa lunedì 26 marzo 2018. Ricordiamo a tutti Radio Wombat, ci potete ascoltare sul sito wombat.noblogs.org, altrimenti in AM, in onde medie, alla frequenza 1359. Qua con la rassegna stampa di Radio Wombat. Oggi andremo a parlare, prima di tutto ci concentreremo su Firenze, sulla questione degli spazi occupati. Parleremo della manifestazione di sabato scorso, sabato 24 marzo, parleremo del CPA e della vicenda mediatica sul caso Balzerani che ne ha seguito in queste ultime settimane, e poi andremo a parlare di, sempre su Firenze, della facoltà di architettura occupata in solidarietà per Afrin. Parleremo di Afrin anche questa volta, faremo un excursus sulla politica istituzionale annunciando con grande gioia l'elezione dei presidenti delle Camere. E poi vediamo un po' come ci viene, perché come sapete è lunedì mattina per tutti, quindi Anche a noi piace improvvisare in questa rassegna stampa. Parleremo anche di Catalogna. E oggi vogliamo provare a fare una sperimentazione per rendere un po' più interattiva questa rassegna stampa, perché ci rendiamo conto che molte volte magari ci ascoltate e vi rendete conto che abbiamo detto una stronzata, oppure magari volete dire anche voi la vostra su una notizia che vi interessa. Quindi proviamo a darvi questo numero di telefono a cui, se volete, potete inviare messaggi o WhatsApp che saranno poi letti in trasmissione, e così proviamo a rendere un po' più interattiva la cosa. Il numero è 392-33-71-868. Ripeto, 392-33-71-868. Mandateci messaggi, WhatsApp, insulti, consigli, opinioni, e le commenteremo insieme. Ok, da cosa partiamo? Partiamo quindi dalla manifestazione di sabato in difesa degli spazi occupati, con un breve resoconto della giornata, che appunto magari molti degli ascoltatori già lo sanno perché partecipavano, perché l'hanno letto su internet. Il corteo previsto da Piazza Puccini non è riuscito a partire, c'è stato un dispiegamento di forze di polizia veramente notevole, sono contati solo in Piazza Puccini 8 camionette della polizia più almeno altre 3 fra le cascine e il resto di San Jacopino, e appunto quindi situazione molto di, diciamo, scarsa agibilità lasciata dalle forze di polizia ai manifestanti, e appunto di un clima molto pesante rispetto a quella che è appunto l'agibilità in piazza. Manifestazione che però è avvenuta a partire da circa le ore 8:30, ritrovandosi appunto fuori da un annuncio pubblico. È partita lo stesso la manifestazione da Ponte Amerigo Vespucci, dove è stato ammazzato Idi ormai quasi un mese fa. E quindi si è svolta lo stesso, si è svolta in centro, La manifestazione, appunto, che aveva visto questo grosso schieramento di polizia impedirne la partenza il pomeriggio, invece la sera si è svolta senza quasi essere controllata dalla polizia, invece ha attraversato le vie di San Frediano, addirittura, sentiamo un po', ha attraversato Ponte Vecchio per poi andare a finire alla facoltà di architettura in Santa Verdiana, vicino appunto a Piazza Ghiberti, occupata dai compagni dei collettivi universitari in solidarietà con Afrin. Si segnalano durante la manifestazione delle azioni di segnalazione ad una scuola, appunto la componente studentesca, che ha voluto mettere l'accento sull'importanza dello spazio a scuola, quindi della partecipazione studentesca, del protagonismo nella gestione degli spazi a scuola, appunto cercando di legarli un po' alla questione degli spazi occupati, e un sanzionamento a una banca di Credit Agricole che finanzia l'esercito turco, quindi appunto azione in solidarietà con i curdi anche questa. E invece, sempre nella stessa serata, dal CPA, che ha avuto una giornata di appunto apertura dello spazio, una giornata delle palestre popolari, vuoi dirlo te? No. Sì, cioè, questa giornata all'insegna dello sport popolare c'è stato un corteo notturno per difendere lo spazio dai recenti attacchi che ci sono stati. Non so, forse ve lo siete perso, anche perché lunedì scorso non abbiamo fatto rassegna stampa, quindi senza di noi siete rimasti all'oscuro dell'informazione, di tutte le cose che succedevano intorno a noi. Ma venerdì 16 marzo al CPA c'è stata la presentazione di un libro con la scrittrice Barbara Balzerani, una scrittrice che scrive da 20 anni, ha pubblicato 6 libri se non sbaglio, anche con editori di grosso calibro come Feltrinelli, e dopo aver scritto il suo ultimo libro ha fatto quello che ogni scrittore fa dopo aver scritto un libro, cioè va a giro e lo presenta. Però coincidenza ha voluto che la signora Barbara Balzerani capitasse al CPA proprio nel quarantennale del rapimento di Aldo Moro, rapimento a cui lei ha partecipato in quanto all'epoca era membro della colonna romana delle BR che organizzò l'azione. La signora Barbara Balzerani comunque ha fatto, cioè, anche a voler essere giustizialista ad ogni costo, cioè, ricordiamo che è stata più di 20 anni in carcere per le sue azioni, quindi secondo i canoni della giustizia borghese avrebbe dovuto estinguere la sua pena ed essere riabilitata totalmente alla vita civile. Però così evidentemente non è, poiché giornalisti infiltrati all'interno della presentazione hanno fatto di tutto pur di estrapolare delle frasi e usarle a pretesto per sferrare un attacco sia contro la Balzerani sia contro il CPA. Infatti, prendendo come pretesto queste frasi, dove sostanzialmente si rivendicava il diritto anche da parte delle BR, che in questo caso possono essere viste come gli aggressori, come gli assalitori, perché erano loro che pianificavano l'azione, a dire la loro parte di storia, cioè a spiegare perché e per quali motivi una grande fetta di classe operaia in quegli anni ha fatto questa scelta molto forte e molto discussa di impugnare le armi in mano. Comunque opinioni che vanno anche al di là, se vogliamo, del giudizio etico sul se sia giusto o meno sparare o no, che quale giustificazione si possa dare alla violenza rivoluzionaria, eccetera, eccetera, ma entra più che altro in un contesto di lettura storica, cioè di voler proprio capire quali sono state le dinamiche, cosa è successo veramente in quei 20 anni di storia d'Italia che sono andati dall'inizio degli anni 60 fino ai primi anni 80. La frase che ha fatto scandalo principalmente è stata questa, che io mi sento anche di condividere abbastanza, ovvero che ultimamente la vittima sembra essere diventato l'unica figura politica, cioè la figura politica per eccellenza. Se un tempo alle vittime, le vittime erano quasi cancellate dalla storia, cioè non gli veniva nemmeno concesso di parlare, ora invece sembra che la figura si sia quasi ribaltata, cioè solo alla vittima è concesso il privilegio di poter dare la sua lettura storica su un fatto, mentre a quelli che non vengono decretati come vittima non è permesso di prendere parola. Ovviamente chi è vittima e chi non è vittima non lo decidiamo noi, ma lo decide chi ha vinto, cioè i vincenti della storia. E quindi poco conta anche andare a indicare che in quegli anni in Italia ci fu quella che possiamo definire, ma non solo noi, anche alcuni storici hanno definito, una guerra civile a bassa intensità, dove si sparava più che volentieri alle manifestazioni da una parte e dall'altra, dove lo Stato si macchiava di attentati terroristici mettendo bombe sui treni, mettendo bombe nelle piazze, e quindi dove le vittime non erano solo quelle che i cosiddetti terroristi rossi sceglievano come obiettivi, ma erano anche quelli dall'altra parte. Quindi, giusto o sbagliate che siano state certe scelte, sicuramente non si tratta di pazzi, folli, che un giorno si sono svegliati e hanno deciso di prendere le armi in mano e iniziare a sparare all'impazzata sul primo che passava. Ok, finito questo breve excursus su quello che è successo col giorno al CPA, ovviamente i giornali, che non hanno molte notizie serie da dare, nei giorni dopo si sono sprecati su questo fatto. C'è stata una mozione approvata in consiglio comunale che chiedeva a grande forza lo sgombero del CPA. Comunque noi ci sentiamo di dare ovviamente solidarietà al CPA, che comunque è un posto dove vengono svolte tutta una serie di attività che riteniamo anche utili per il quartiere che le circonda. Quindi leggiamo il comunicato che ha accusato, ha fatto uscire il CPA. Saltiamo la prima parte dove vengono spiegati brevemente i fatti che noi vi abbiamo spiegato per esteso. Leggiamo: il Centro Popolare non si tocca. Il Consiglio Comunale di Firenze lunedì scorso ha votato una mozione per chiedere al sindaco di procedere verso lo sgombero del CPA, con i 3 consiglieri della sinistra che hanno votato contro. Questa richiesta fa seguito alla presentazione di un romanzo di Barbara Valzerani e a quanto hanno suscitato alcune sue parole dette a conclusione della serata. Il gruppo consigliere del PD ha fatto propria la mozione di chi ogni 25 aprile commemora i franchi tiratori che nel 1944 sparavano su donne e bambini a Firenze per terrorizzare la popolazione, da parte di chi ha portato a parlare a Firenze personaggi come Mario Merlino, fascista infiltrato in un gruppo anarchico e coinvolto nella strage di Piazza Fontana, o commemorato la morte di Morsello, già dentro tutti i misteri della strage di Bologna assieme a Fiore, fatto oggi nel Parlamento europeo con l'appoggio di Forza Italia e ora capito di Forza Nuova. Ancora una volta l'agenda politica è stata dettata al PD dalla destra, in linea con quanto accaduto in questi anni di politica nazionale, con continui scivolamenti e cedimenti a favore della cultura reazionaria. Del resto i loro dirigenti non hanno disdegnato neanche le sedi di Casa Pound, a partire dall'assessore Concia, e la stagione del loro antifascismo si è chiusa con la campagna elettorale. Il CPA Firenze Sud evidentemente rappresenta un'esperienza scomoda. Una voce fuori dal coro che la destra e il gruppo consigliare del PD vorrebbero mettere a tacere, nonostante i 29 anni di storia e le migliaia di persone che hanno frequentato e frequentano il centro popolare. Dalla mensa serale quotidiana alle mille iniziative di solidarietà internazionale e di sostegno ai lavoratori, alle lotte contro la speculazione e per la difesa dei nostri territori. Cinema, teatro, palestra popolare con decine e decine di atleti tra box, karate e mini basket. Ciclofficina popolare, mediateca e sale prove per i gruppi, centro di documentazione e libreria, sala concerti, oltre alla costante presenza della comunità cingalese. Scegliendo di dare seguito agli inviti della destra, il sindaco Nardella si prenderebbe la responsabilità politica di mettere in discussione tutto questo. Un'esperienza sganciata dalle logiche di mercato e di guadagno, dove gli attivisti, dopo le 8 ore di lavoro quotidiano o le ore di studio, si prestano gratuitamente all'organizzazione delle varie iniziative, che rilanciamo sin da ora. Invitiamo tutte e tutti a essere presenti e a partecipare. Infine ringraziamo le tante realtà politiche, sociali e singoli che ci hanno già manifestato la loro solidarietà in queste ore. Chiediamo a tutti di rilanciare ancora le ragioni di un'esperienza che in tanti hanno conosciuto e apprezzato negli anni e che anche grazie al loro contributo è potuta crescere. Il CPA si difende con la lotta. Quindi è comunque un comunicato che va in linea con quello che il corteo di sabato ha espresso, in cui infatti anche molti militanti del CPA erano presenti e hanno distribuito anche lì questo volantino dove davano la loro visione su quello che succedeva. Ok, andiamo con un breve stacco musicale e poi parliamo appunto del Kurdistan e della facoltà di architettura occupata a Firenze. Vogliamo ricordare il numero su cui potete scriverci per tenerci compagnia? Sì, 392-3371-868. Dai, scriveteci. Sono qui per buttarci fuori di città. Sono tutti in fila lì per sei, però non sono mica amici miei. Sono venuti tutti qui per noi, ma guarda che adunata di cowboys. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. In terza fila vedo uno che somiglia molto a mio cugino. Cane proprio Bruno, ma perché si è fatto celerino? Ma se ci prova a venire su, io dalle scale lo ributto giù. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Oh! Mai un bidet. Quando lo schizzo viene su si mette a ridere, non ne può più. Trippi servizi, ma tu guarda un po', passano il giorno a fare la popò. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Sul pavimento le piastrelle sono dipinte tutte quante stelle. Sulla parete abbiamo scritto questa casa è il nostro diritto. Se la tenete vuote, cari miei, le conserviamo intanto noi per voi. Di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Oh, Ok, bentornati con la nostra rassegna stampa e ora parliamo delle iniziative che ci sono state in Italia questo fine settimana a sostegno della resistenza nella regione di Afrin, perché come forse saprete il 21 marzo cade il Newroz, che è da sempre non solo una festa per il popolo curdo, sarebbe infatti l'inizio del loro anno, il loro capodanno, ma è anche un appuntamento di lotta. E per cui è stato chiamato dalle regioni che resistono all'esercito turco questo appello di mobilitazione per rompere il silenzio mediatico che in Occidente avvolge questa guerra di cui l'Occidente alla fine è complice. E questa a Firenze in particolar modo c'è stata delle iniziative molto fighe. Infatti i collettivi universitari si sono organizzati per occupare per 48 ore la facoltà di architettura di Santa Verniana e hanno organizzato varie iniziative che potevano andare dalle semplici feste come modo di divertirsi e di stare assieme non all'interno di logiche capitaliste di mercato e che poi sono anche un modo per finanziare comunque la resistenza curda. Infatti tutti i soldi del ricavato saranno devoluti alla Mezzaluna Curdo o comunque ad altre associazioni che si occupano di far arrivare aiuti in Kurdistan. Ha comunque dibattiti, presentazioni, sono state proiettate tesi di laurea che parlano del Kurdistan, cioè stati incontri con persone che sono state in Kurdistan sia a combattere sia a vedere coi loro occhi qual era la situazione. E anche la crew, la nostra crew casalinga di Rifredi, la Tullo Soldi, ha partecipato in maniera attiva a queste cose. Ricordiamo infatti che ormai è di dominio pubblico che un loro componente si trova tuttora a combattere in Kurdistan contro i turchi. E sono state prodotte molte cose carine, tra cui anche una fanzine che vi invitiamo a procurarvi, dove sono raccolti alcuni suoi interventi dai territori in questo momento occupati. E andiamo magari a leggere qualcosa su quello che sta succedendo ora ad Afrin. E vogliamo iniziare appunto dall'intervista Lorenzo. Sì, esatto. Abbiamo il giornale.it che appunto stranamente riporta un articolo e parla appunto dei combattenti del battaglione internazionale del popolo curdo, dei combattenti italiani. I compagni del giornale. Esatto. E quindi niente, vi leggo questo articolo che titola «Gli italiani che lottano con i curdi. Erdogan ha rivitalizzato i jihadisti. Lorenzo, Marco, Maria combattono contro i turchi e islamisti in Siria. L'indifferenza dell'Occidente provocherà altri attacchi terroristici. L'attentato in Francia non è casuale, ne vedremo degli altri. L'Europa ha permesso la conquista di Afrin da parte delle forze jihadiste, reclutate dai turchi, consegnando una nuova base al terrorismo», spiega via WhatsApp dalla Siria Lorenzo, nome di battaglia Tekoser. Fiorentino, 32 anni, è uno dei quattro italiani che hanno combattuto ad Afrin. La sacca curda nel nord-ovest del paese, spazzata via dall'invasione di Ankara. Si sono arruolati nelle fila delle YPG, le unità di protezione popolari, che nel nord-ovest del paese hanno creato il Rojava, una realtà autonoma curda nel caos siriano. Al fianco di Lorenzo c'è di Dilsuz, cuore promesso, anarchico romano di 33 anni. Cadafrin ha visto la collina dove erano posizionati i miei compagni bruciare sotto l'attacco degli elicotteri turchi. Sono morti tutti, uomini e donne, che combattevano contro le forze jihadiste, altro che terroristi come ci dipinge Ankara. Del gruppetto di volontari appena ripiegati dall'inferno di Afrin faceva parte anche Marco, 23 anni, che viene da Rovigo, e per la prima volta una ragazza, Maria Edgarda, 26 anni, di Roma, nome di battaglia Shilan. Le forze curde siriane sono le uniche della regione che hanno reparti combattenti donne. Eddie è una femminista tosta ed attivista notav, spiega Lorenzo. Ad Afrin i giannizieri jihadisti dei turchi li sentivamo urlare per radio Allahu Akbar, racconta il volontario italiano. Se trovano i corpi dei nostri compagni li mutilavano, come ha sempre fatto l'ISIS. Ankara ha reclutato ex di Al-Nusra, la hostra Al-Qaeda di Al-Qaeda in Siria, e gli stessi terroristi dello Stato Islamico, che stavano scappando dopo le sconfitte. I servizi segreti occidentali lo sanno bene. I turchi bombardavano soprattutto i paesini attorno alla roccaforte curda, anche se i combattenti delle YPG erano solo di passaggio. Ad Afrin sono stati più attenti per non sollevare la reazione internazionale, ma ho visto con i miei occhi la fila chilometrica di auto civili in fuga in mezzo alle bombe. L'evacuazione è stata drammatica, sottolinea Delsuz, che preferisce non farsi vedere in volto. I volontari italiani hanno combattuto prima di Afrin a Deir Erzor, scusate, penso sia sbagliata la pronuncia, l'ultima sacca delle bandiere nere lungo l'Eufrate verso l'Iraq. È uno scandalo che l'Occidente ci abbia abbandonato, sbotta il combattente romano. I curdi con altre forze minoritarie hanno liberato Raqqa, la storica capitale del califfato, grazie all'appoggio aereo alleato. Poi sono stati costretti a spostare 1500 uomini per difendere Afrin e adesso non si fidano più di nessuno. I turchi potrebbero continuare l'avanzata attaccando Manbij o Kobane, roccaforti Kurman, spiega Lorenzo. Ci sono ancora i corpi speciali americani, ma non mi stupirei di una pugnalata alle spalle. Gli italiani fanno parte di una brigata internazionale, con francesi, americani, un irlandese che è morto da Afrin, anarchico come noi. Nel corso della guerra civile siriana sono stati 1.000-2.000 i volontari stranieri che hanno combattuto al fianco dei curdi, compresi ex marine oppure legionari francesi, decisi ad imbracciare le armi dopo gli attacchi del terrore negli USA ed in Europa. Una ventina gli italiani negli ultimi tempi ed uno è stato anche ferito ad un braccio, rimanendo in prima linea. Negli ultimi due mesi abbiamo rischiato la vita tante volte, spiega Lorenzo. Potevi chiudere gli occhi per dormire un po' e non ti svegliavi più a causa di un attacco aereo. I volontari italiani sono convinti che per la caduta di Afrin in mano alle forze jihadiste appoggiate dai turchi ne pagheremo tutte le conseguenze. Se poi ci saranno altri attacchi del terrore in Europa, altri Bataclan, non lamentiamoci. È colpa della comunità internazionale che non ha mosso un dito. Questo è appunto l'articolo del giornale che insomma riporta molto di quello che dicono appunto i compagni da là, nonostante appunto il tono tipico del giornale per certi versi. In certo senso apprezziamo comunque che sia uscita anche questa notizia a rompere un po' il silenzio sordo che attanaglia questa questione. Anche per sbaglio uno dei peggiori quotidiani italiani due volte l'anno magari fa un articolo decente, dai. Ok, leggiamo quest'altro articolo, è tratto da un sito di informazione inglese che si chiama ANF News e tradotto da InfoOut. Il portavoce YPG Nuri Mahmoud ha dichiarato che Afrin non è stata evacuata in seguito a degli accordi, ma con la decisione della popolazione della città che è arrivata faccia a faccia col genocidio. Anche le nostre forze hanno preso parte a questa decisione. Era importante spostare la popolazione in una zona sicura. La resistenza non è finita con l'uscita della nostra gente. In questo momento la nostra lotta ad Afrin continua. Afrin non sarà mai un posto sicuro per gli invasori. Continueremo con la nostra lotta finché Afrin non sarà libera. Con l'evacuazione della popolazione dal centro della città, l'amministrazione di Afrin ha annunciato una nuova fase della resistenza. Perché la popolazione ha dovuto lasciare la città? Il sultano Erdogan e il suo codazzo di forze dell'ISIS, di Jabhat al-Nusra ed al-Qaeda hanno imperversato per 2 mesi. Erdogan non è riuscito ad ottenere risultati con l'attacco di terra ed è passato a bersagliare civili con aerei, elicotteri, droni armati, artiglieria e carri armati tedeschi. Ha costretto gli abitanti del posto a migrare. Davanti a questi attacchi, tutti i popoli di Afrin si sono dovuti spostare dapprima verso il centro di Afrin dai villaggi. I nostri combattenti hanno portato a termine con successo quotidianamente azioni contro queste forze terroriste, ma dagli ultimi sviluppi abbiamo constatato che le forze di invasione stanno preparandosi ad intraprendere un genocidio. C'erano costanti attacchi aerei e di artiglieria sulla città. Innumerevoli donne, bambini e rifugiati da fuori Afrin sono caduti martiri in questi attacchi ed altri hanno perso le loro case. Gli invasori hanno bersagliato fin dall'inizio le case, i forni, gli impianti per la bonifica dell'acqua della gente. La loro ultima operazione è stata contro l'ospedale Avrin. Perciò, con la decisione della gente di Afrin, il governo militare e politico ha iniziato la fase dell'evacuazione dei civili dalla città e continua a combattere gli invasori utilizzando le tattiche della guerriglia. In questo momento la nostra lotta ad Afrin continua. Afrin non sarà mai un luogo sicuro per gli invasori. Continueremo con la nostra lotta finché Afrin non sarà libera. Ovviamente lo Stato turco invasore è impegnato in un serio tentativo di cambiare la demografia della città. Ecco perché prendo di mira le persone che vogliono ritornare nelle proprie case. Ad esempio 250 persone volevano far ritorno a Jindires, ma sono finite nel mirino di queste forze terroriste. Alcune istituzioni e circoli mediatici sostengono che la popolazione e le vostre forze si siano ritirate da Afrin come parte di un accordo. È la verità? La popolazione di Afrin ha preso la propria decisione perché stava affrontando un genocidio. Ecco perché la decisione di rimuovere la popolazione di Afrin dalla città è stata completamente la loro e perché le nostre forze hanno agito in accordo con questa decisione. Era importante ridislocare la popolazione verso una zona sicura e la resistenza non è finita ora che la gente ne è uscita. C'è stata una seria lotta contro il terrore dell'ISIS che ha incluso diversi stati globali. Perché la Russia ha aiutato l'invasione di Afrin mentre gli altri sono rimasti in silenzio? L'esercito turco e queste forze terroriste che sono entrate ad Afrin lo hanno fatto con l'alleanza che hanno costruito con la Russia. Afrin è stata offerta in cambio di Ghouta e sono stati stipulati accordi sul commercio di gas naturale e doganali sugli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Ai turchi è stato aperto lo spazio aereo e lo Stato turco ha utilizzato le armi più avanzate della NATO, incluse le armi chimiche. Non c'è dubbio che lo Stato turco guidato da Erdogan stia progettando qualcosa di grosso, e lo ammette. Qual è il grande progetto ed obiettivo che vedete? Per loro non esistono più le mappe della Siria, della Turchia o del Medio Oriente. Vogliono espandere il loro sultanato attraverso la Siria e del Medio Oriente con mezzo dei mongoli. In un discorso al raduno di Mardin, Erdogan parlava di come il territorio ottomano si fosse ridotto da 18 milioni di chilometri quadrati alla dimensione odierna, un confine di 970 chilometri con la Siria. Questo discorso mostra che non si accontenta più dell'attuale situazione. E le potenze e le istituzioni internazionali non se ne rendono conto? Lo Stato turco utilizza la posizione strategica del paese contro le potenze internazionali e le istituzioni che hanno formato. Utilizzano armi NATO e carri armati tedeschi. Ora raccolgono una jihadia, cioè un riscatto, dal mondo cristiano attraverso la Germania in nome dei rifugiati. Minacciano di mandare terroristi in Europa e la Germania paga un riscatto per proteggersi da ciò, come l'ISIS era solito raccogliere un riscatto dai cristiani a Raqqa e Mosul. Erdogan sta raccogliendo il riscatto dal governo Merkel. Attacca il Medio Oriente con il riscatto che raccoglie dal mondo cristiano. Queste terre sono tenute dalla forza terrorista di Erdogan e dal suo governo. Erdogan non può essere soddisfatto dall'attuale situazione e vuole espandersi. È diventata una minaccia per i popoli del Medio Oriente. Anche il mondo riceverà la sua giusta parte di questa situazione. Sfortunatamente gli stati e i governi del mondo non sono opposti a questo terrorismo da parte di Erdogan e del suo governo. Le potenze internazionali stanno considerando l'utilizzo della posizione strategica della Turchia per i propri interessi e per sviluppare il proprio capitale su di essa. Il mondo occidentale e gli stati asiatici e medio orientali presentano politiche deboli per il sultano del terrore Erdogan o mancano di visione. Come è stata condizionata la vostra lotta all'ISIS a Deir ez-Zor quando l'ISIS ed il loro architetto si sono insediati ad Afrin? Quando Erdogan ha aperto un nuovo fronte ad Afrin in partenariato con l'ISIS, le nostre forze hanno concluso che l'ISIS si stia organizzando ad Afrin sotto un'identità turca. Quelli che hanno creato Baghdadi e l'ISIS stanno combattendo in persona oggi ad Afrin. Ecco perché le nostre forze si stanno concentrando principalmente sul combattere l'ISIS o il vero terrore. Le nostre forze a Deir ez-Zor hanno in mente le modalità per difendere Afrin e come combattere là, anziché concentrare il proprio intelletto su Deir ez-Zor. Le SDF hanno annunciato lo stop temporaneo all'operazione Cisi Restore, ma ciò non significa che la nostra lotta contro l'ISIS sia conclusa. Combatteremo il terrore fino alla fine. È acclarato che la guerra contro Afrin abbia permesso all'ISIS di organizzarsi per effettuare nuovi attacchi. Con l'aiuto del sultano turco Erdogan, l'ISIS si sta ricostituendo. Non solo a Deir ez-Zor, l'ISIS controlla sul nuovo fronte ad Afrin e si è sviluppato. I loro attacchi contro Afrin ed il loro ingresso sono stati in ogni caso del tutto terroristici. Quanti stanno entrando ad Afrin ora sono terroristi e saccheggiatori. Lo Stato turco minaccia costantemente Manbij e dice che c'è la presenza delle YPG a Manbij. YPG ha lasciato la difesa di Manbij al Consiglio Militare di Manbij dopo l'operazione. Ma lo Stato turco crea una simile argomentazione e per qualche ragione nessuno dice «No, le YPG non sono lì». Come gli YPG abbiamo liberato Manbij dall'invasione dell'ISIS assieme al Consiglio Militare di Manbij e ad altri costituenti delle SDF, per l'appello a noi rivolto alla popolazione di Manbij. Quindi abbiamo lasciato Manbij alla sua gente e la sua difesa al Consiglio Militare di Manbij. L'illazione di Erdogan e del governo dell'HP che le YPG siano ancora lì, che Manbij sia ancora governato dai curdi, non è assolutamente vera. È una pura scusa per attaccare Manbij. E potrebbe succedere? Non è chiaro se i governi globali sacrificherebbero Manbij al terrorismo di Erdogan per i loro interessi periodici o anche per le loro ristrette vedute. Lo Stato turco vuole legittimare il proprio futuro attacco contro Manbij attraverso l'allocazione che abbiamo discusso in precedenza dei propri strumenti di marketing. Se vincono ad Afrin non si fermeranno, non si accontreranno di Manbij, della Siria e del Medio Oriente, prenderanno di mira l'Europa e l'Asia. Ogni preda è lecita per lo Stato turco. In quanto tale, il loro sultano Erdogan può usare qualsiasi stile e propaganda al di fuori del regno della moralità, della legge internazionale e persino della realtà. Cosa possono fare i popoli della Siria del Nord e i curdi? I curdi, i popoli della Siria del Nord e quanti vogliono libertà e democrazia nel mondo dovrebbero sapere che abbiamo difeso il mondo intero dal terrorismo con la lotta che abbiamo intrapreso in Siria del Nord. Oggi il fondatore del terrore, il sultano turco, attaccato ed invaso Afrin per distruggere la democrazia, le libertà ed il consenso sociale. Gli stati e le alleanze internazionali sono silenti. Le società dovrebbero discutere questa realtà con una responsabilità naturale ed organizzarsi davanti ad una simile realtà. Noi diciamo, basatevi sull'auto-organizzazione e sulla difesa di una società libera. Noi, come gli YPG, difenderemo la nostra società fino alla fine e dappertutto. Ecco, che quindi ci ha spiegato anche con un po' la verbosità tipica dei curdi qual è la situazione ad Afrin e perché hanno preso questa decisione di evacuare la città. E qualche precisazione che nell'articolo magari non è spiegata fino in fondo. Una è che nell'attacco contro Manbij comunque va considerato che a Manbij è presente una base della NATO americana e quindi l'attore, cioè, ci sarebbe un attore in più in gioco perché non basterebbe semplicemente la Turchia col diciamo il silenzio assenso della Russia ad attaccare, ma un attacco verso Manbij andrebbe anche ad intaccare interessi americani. Un'altra è che la Turchia a quanto pare sta iniziando a spostare gran parte di popolazioni che si erano rifugiate in Turchia nelle zone presso il confine e che principalmente sono famiglie di jihadisti che sono riusciti a evacuare dalle zone sotto il controllo dell'ISIS poco prima che l'ISIS si sgretolasse e che ora stanno venendo spostate nella zona di Afrin per sostituire la popolazione locale e rendere quelle zone comunque controllate o da etnie turcomanne o comunque da arabi che hanno come fede l'islamismo sunnita, quindi con un controllo che maggiore da parte dello Stato turco. Qualche considerazione che viene alla luce davanti a queste informazioni sono uno che Erdogan veramente si vuole rilanciare come diciamo anche la personalità guida dell'islamismo sunnita, quindi questo progetto che di potenza, di imperialismo locale che sta lanciando, non punta solo a quelli che sono gli interessi dello Stato turco, ma sono veramente quelli di rifondare un impero ottomano che si ponga nuovamente come guida di tutto l'Islam sunnita, al di là delle varie componenti etniche che ne fanno parte. L'altro è che sembra di essere veramente davanti a un copione già scritto, cioè quello che vediamo da 30 anni in Medio Oriente, cioè gli stati dell'Occidente che mano a mano armano un attore locale contro un altro, lo sostengono e poi ciclicamente si ritrovano a dover fare la guerra a questo nuovo attore locale. È successo con Saddam Hussein, è successo con Al-Qaeda, è successo con l'ISIS. A questo punto sembra che succederà anche con Erdogan, perché finora ha goduto della totale complicità dell'Occidente, ma che non sembra volersi fermare una volta sconfitti i nemici locali, una volta unificato il Medio Oriente sotto la bandiera turca, non sembra volersi fermare qui, e sicuramente prima o poi questi interessi suoi andranno a scontrarsi anche contro gli occidentali, che ancora una volta pagano veramente la loro miopia politica e il non sapere assolutamente vedere al di là del tornaconto immediato. E quindi non è assurdo affermare che nel prossimo futuro le potenze occidentali si pentiranno ampiamente di queste decisioni. Ancora una volta l'unico attore che sembra poter garantire una qualche forma di pace e di stabilità all'interno dello scacchiere medio orientale sono i curdi, o comunque la confederazione democratica che ha messo in campo la rivoluzione della Siria del Nord. Ok, andiamo con un po' di musica, un breve stacco. Ho trovato su YouTube della musica curdo-siriana, quindi in realtà non l'ho ascoltata. Però... A me fa un po' cacare la musica curdo-siriana, però vabbè. Beccate a tema, quindi becchiamo... Ve la succate. جای آزادیه ولات من آزاد به دل آلای کیتیه برای بهشی آرد به جای آزادیه ولات من آزاد به دل آلای کیتیه برای بهشی آرد به ولاته من آزاد به دل آلای کیتیه وای هیوی شیار دبه تو هشای آزادیه ولاته من آزاد به دل آلای کیتیه وای هیوی شیار دبه جدا بون گلکی زوره دست براد یه نبره رکا آزاد یه ندوره دشمنه من کرده بره بیشی بیشی شورش آمه یان دیرین یان آزادی بیشی بیشی شورش آمه یان دیرین یان آزادی Non era così male alla fine questo pezzo, peccato che non fosse remixato, però era comunque ascoltabile. E, finiamo con le ultime notizie dal nostro paese, prima di passare oltre confine. E, andiamo a livello della politica istituzionale, che nel bene o nel male comunque influisce un po' sul nostro agire militante. E, tra venerdì e sabato infatti sono stati eletti i presidenti delle due camere. Alla Camera Alta è stata eletta un magistrato, donna, però sicuramente non femminista, anzi ha già fatto delle dichiarazioni che vanno molto contro questa una possibile chiave di lettura femminista della sua elezione. È un candidato indicato da Forza Italia, e in Forza Italia sin dal 94, quindi dall'inizio, non era un candidato troppo di spicco, cioè non una figura così in vista del partito, e questa elezione da un certo punto di vista rappresenta sicuramente il contentino che Salvini e il 5 Stelle magari hanno voluto dare a Berlusconi prima di liquidarlo definitivamente. Infatti è molto difficile poter vedere un governo a cui potrà partecipare Forza Italia. E, dall'altro punto di vista è anche un segno di una possibile politica conservatrice che verrà portata avanti almeno su alcuni temi. Infatti questo magistrato è famoso soprattutto per le sue posizioni contro le unioni civili, quindi a livello di alcuni diritti delle minoranze sicuramente sarà più dura vedere degli avanzamenti, e d'altronde non ci pare sicuramente che i diritti delle minoranze siano sull'agenda politica del Movimento 5 Stelle o della Lega. Alla Camera Bassa invece è stato eletto il ben più famoso Roberto Fico, che è comunque una delle figure di spicco del Movimento 5 Stelle, anche forse una delle figure, almeno a me, è una dei pochi che mi risulta simpatico, perché sembra molto un ingenuotto che non si rende ben conto dei giochini di potere che stanno accadendo accanto a lui. E sicuramente questa è un'indicazione della volontà sia del Movimento 5 Stelle sia da parte della Lega di operare tutta una serie di punti programmatici che vengono condivisi dai due partiti, come il taglio dei costi della politica in primo luogo o la lotta alla corruzione in secondo. Vorrei anche sottolineare tutti i vari punti in ambito legalitario e sicuritario, che probabilmente sono quello che a livello di impatto sociale quotidiano possono più spaventare i poveri o comunque gli abitanti delle città, scusami. Sì, sono ben vengano le precisazioni. Questo sicuramente va a dare un'indicazione abbastanza chiara delle probabilità più alte di formazione del prossimo governo, che a questo punto sembra indirizzato a essere un asse tra Lega e 5 Stelle, come già avevamo indicato il giorno dopo le elezioni. Quindi possiamo dire che su questo ci abbiamo visto lungo. Fidatevi dei vostri analisti politici che ci chiappano quasi sempre. Sembrerebbe appunto un asse probabilmente a guida Lega a questo punto, potrebbe essere, perché comunque la Lega come coalizione centrodestra rivendica comunque la vittoria elettorale e quindi anche per appunto quelle sono state le elezioni delle Camere potrebbe essere a comando Lega questo governo, a meno che non trovino un personaggio di terze parti, una figura più spendibile anche politicamente forse da mandare in pasto all'opinione pubblica italiana per quelli, speriamo sia magari qualche mese, non so, io ci spero sempre alla caduta del governo. Sì, perché infatti questo sembra veramente l'unico nodo che divide 5 Stelle e Lega, cioè ovviamente la scelta del Premier. E non lo so, se vogliamo fare una scommessa, io punto sulla terza figura, cioè, perché andrebbe, cioè, indicare uno dei leader dei due partiti, cioè, darebbe troppo peso sulla bilancia all'una e all'altra parte. Sembra che nessuno voglia questo. Sembra che questa legislatura sarà veramente più improntata sul peso del Parlamento piuttosto che una magistratura governista come quelle che abbiamo visto finora, dove si governava principalmente per decreti legge. Sì, in realtà anch'io, cioè, una scommessa in cui probabilmente punterei sulla stessa cosa, quindi abbiamo poco da scommettere, mi sa, io e te. Per scelta, per fare la scommessa potrei dire Salvini, ma in realtà penso appunto anch'io che emergerà una terza figura, uno come potrebbe essere, non so, un Gabrielli, anche se in realtà non lui, perché è un uomo sicuramente più legato al PD, però ecco, una figura del genere potrebbe emergere nei prossimi giorni, immaginiamo. Tipo il Corriere da come possibile premier un certo Giancarlo Giorgetti, che io non ho la minima idea di chi sia, e formula questa ipotesi: posti chiave del governo ai grillini, appoggio esterno di Forza Italia e Meloni, alla quale Salvini e Di Maio hanno telefonato per chiederle di stare dalla loro parte. Chissà. Quindi, se volete scommettere con noi, mandateci un messaggio e alla fine vedremo, possiamo mettere in palio una birra, che dici? Dai. Ce la possiamo permettere una birra? Sì, ci permetteremo una birra. In questi, cioè, l'unica posizione certa è che il PD sembra certo di non voler prendere parte in nessun caso a questo governo, cioè su questo sta vincendo la linea di Renzi. Quindi PD fuori dai giochi, anche se c'è già una minoranza interna al PD che comunque vede con buon occhio alcuni temi dei 5 Stelle. Lo stesso Martina, che è il segretario reggente, ha detto dopo il discorso di Fico alla Camera che comunque il discorso è stato bello e che su alcuni temi faceva riflettere, quindi è già una mezza apertura. E niente, questo è il quadro finora, e ne sapremo di più dal 3 aprile in poi, data fissata per l'inizio delle consultazioni presidenziali, e il 9 aprile invece è il giorno in cui verrà affidato l'incarico di governo a qualcuno, quindi ancora ci sono un paio di settimane di gossip parlamentare da dover sopportare. Va bene, passiamo oltre confine, sì, dove, esatto, le lotte sono purtroppo più interessanti che da noi, almeno attualmente. Esatto, vi porto oltre Alpe dalla pagina Facebook Nantes Revoltée, che appunto parla di giovedì 22 marzo, e c'è stata una manifestazione, cioè molte manifestazioni in tutta la Francia appunto per un appuntamento nazionale, manifestazioni contro gli attacchi sociali del governo Macron, che sono appunto in continuità con quelli del precedente governo Hollande-Val, e che appunto segnano, nello specifico si parla anche di accessi alla scuola, numeri chiusi per corsi universitari. Comunque in generale, ci tengo a precisarlo, c'è appunto nelle mobilitazioni francesi una grossa forza mobilitante che in realtà è di critica abbastanza larga rispetto a tutte le politiche di ristrutturazione sociale, di taglio appunto alle istituzioni pubbliche, a quelli che sono i servizi. E quindi niente, vi leggo da questa pagina Facebook, che appunto è incentrata su quello che succede a Nantes. E, allora, giovedì 22 marzo, 500.000 persone hanno manifestato in Francia contro la politica di Macron, di cui almeno 10.000 a Nantes, in una sfilata particolarmente energica, con oltre 1.000 giovani in testa. Ma ancora una volta a Nantes la polizia si è dimostrata con una violenza fuori dal comune. Ancora una volta la nostra città ha pagato un tributo particolarmente pesante in termini di repressione, con numerosi feriti gravi e numerosi arresti. Diamo alcune informazioni. Centinaia di poliziotti di tutte le unità possibili hanno impedito al corteo di sfilare dove voleva, costringendo le migliaia di manifestanti a rimanere su un percorso ridicolmente piccolo, pena essere colpiti e gasati. Durante tutta la sfilata, le unità della BAC, che sono una forza di polizia speciale per le piazze francesi, giusto per precisare, le unità della BAC, completamente incappucciate e vestite di nero, hanno puntato i manifestanti ad altezza testa con il loro lanciatore e proiettili di gomma, al solo scopo di terrorizzare. Alla fine l'assalto è stato dato senza motivo. Abbiamo sferrato un dramma irreversibile, dato che due persone sono state gravemente ferite in faccia da frammenti delle numerose granate di disaccerchiamento lanciate sulla folla. A pochi centimetri di distanza i manifestanti perdevano un occhio, forse ancora peggio. Ah, scusate, scusate perché sto leggendo un pezzo che è tradotto da Facebook. Niente. Per pochi centimetri di distanza hanno rischiato di perdere l'occhio. Un'altra illustrazione di questa furia di violenza si dà dal fatto che un manifestante ha ricevuto nello stesso momento due proiettili di gomma alla schiena mentre fuggiva dalle cariche. La polizia ha aperto il fuoco più volte alle spalle dei giovani che correvano e non rappresentavano ancora alcun pericolo. Una street medics, ovvero per precisare, appunto ci sono dei gruppi di compagni che nelle piazze francesi si organizzano per appunto prestare soccorso medico, visto anche qual è il tipo di dispiegamento di forze e di mezzi della polizia. Una street medic che curava i feriti è stata, che curava i feriti da colpi d'arma, di pallottoli di gomma e dai gas lacrimogeni, è stata accerchiata, messa a terra, colpita e insultata. La polizia gli ha calpestato la faccia davanti a decine di manifestanti. A che scopo? Ancora una volta per spaventare, per dare un esempio. 8 persone sono state arrestate. Questo fa di Nantes la città dove la polizia ha arrestato più manifestanti per questa giornata d'azione. Nantes subisce da anni un trattamento di favore da parte dello Stato, con la volontà di spezzare fisicamente le resistenze. L'attacco degli studenti da parte di una milizia a Montpellier ha giustamente sollevato un'ondata di indignazione nazionale. Le violenze di polizia commesse a Nantes il 22 marzo sono state sul piano dei danni alle persone ancora più gravi. Siamo contro queste aggressioni, fermiamole. Allora, visto che citava appunto questa questione Montpellier, vi leggo anche un piccolo resoconto di quello. È stato un episodio molto grave, successo all'Università di Montpellier, molto breve. Viene da Montpellier.info, che è appunto, immagino sia un sito di informazione anche questo. Nella notte del 22 marzo, dopo un'importante giornata di mobilitazione contro la selezione studentesca e gli attacchi sociali di Macron, una milizia incappucciata e armata ha attaccato gli studenti che occupavano un anfiteatro dell'Università di Montpellier. Pugni, bastoni, colpi di taser, una violenza completamente gratuita. Diversi studenti sono stati feriti e talvolta ricoverati. Il sangue è sgorgato dentro il campus universitario. Una studentessa presente sul luogo racconta: la facoltà di legge di Montpellier era occupata dagli studenti, eravamo ancora una cinquantina. Uomini, una decina in nero, una decina di uomini in nero, in maschera, con bastoni, pezzi di pallet, sono entrati. Non hanno parlato, hanno tirato fuori tutte le persone e le hanno messe lì per terra. Il presidente della facoltà di legge era presente, l'ho visto aprire la porta a quegli uomini. Ho visto le porte del college chiudersi con quegli uomini dentro. Ho visto un'amica a terra, sanguinante, con il portone che si richiude sulle sue gambe. Il preside della facoltà di legge, lo dico perché l'ho visto, ha mostrato a questi uomini, di cui non aveva paura, gli obiettivi, studenti, giovani come me. Questo gruppo armato ha quindi ricevuto il sostegno logistico dell'amministrazione universitaria. Dopo aver mandato la polizia a reprimere con estrema violenza le manifestazioni dei giovani, si sta delineando una nuova forma di repressione, il ricorso a milizie parastatali e fasciste per terrorizzare le lotte. Queste intimidazioni non ci faranno tornare indietro. Organizziamo la nostra difesa, solidarietà con tutti gli studenti di Montpellier. E appunto, quindi questo è il quadro da una Francia, da un movimento francese che non si arrende, che anche se con alcune battute d'arresto da oltre 2 anni è in forte mobilitazione riguardo appunto i temi sociali, e continua, ha ripreso appunto nelle ultime settimane ad animare grosse manifestazioni di piazza, continua questa pratica del corteo di testa, che sarebbe appunto lo spezzone iniziale delle manifestazioni comunque sindacali, manifestazioni di tutta la sinistra, in cui lo spezzone di testa è animato e completamente abitato, se si può dire, da giovani provenienti da gruppi auto-organizzati, da gruppi universitari, da lotte autonome, e quindi appunto questa pratica più conflittuale, che è molto riconosciuta all'interno del movimento. E vediamo appunto come, nonostante dopo anni di repressione che si è vista via via aumentare, adesso siamo arrivati appunto a nuovi picchi, appunto l'uso degli apparati fascisti, che in un paese come la Francia, a differenza dell'Italia, fanno, in realtà sono una cosa molto più insolita e fanno più scandalo nell'opinione pubblica, che mantiene molto più appunto una velleità democratica. E in ogni caso esprimiamo solidarietà ai compagni che stanno mobilitando e massima complicità per questi movimenti sicuramente importanti, e che anche in questi anni hanno segnato sia sul piano dell'immaginario che sul piano anche delle pratiche possibili, un bel punto di riferimento per qui in Italia, ma in generale per tutti i movimenti europei. Ecco, una delle cose principali di questo sciopero è stato che, oltre a una forte componente studentesca e universitaria, c'è stata anche una forte presenza di una categoria chiave per comunque la logistica del paese, per lo spostamento delle merci, che è quello dei ferrovieri. Infatti, se lo sciopero ha avuto così tanto successo, oltre che alla generosità degli studenti, oltre che ai licei chiusi e alle università bloccate, si deve anche al fatto che lo sciopero indetto dalla CGT della categoria dei ferrovieri ha raggiunto un picco del 95%, paralizzando totalmente la Francia per quello che riguarda il trasporto su rotaia. Leggiamo quindi questo approfondimento, che sembra molto interessante per capire in che modo la partecipazione di questa categoria potrebbe dare veramente uno slancio in più a questa lotta. In Francia i lavoratori delle ferrovie sono i primi passi di una lotta che si pronuncia dura e senza sconti. In gioco c'è il futuro del servizio pubblico ferroviario francese, minacciato dalla riforma di SNCF, che prevede la fine dell'applicazione dello statuto dei lavoratori delle ferrovie per i nuovi assunti e un'apertura alla concorrenza che spianerebbe la strada verso la privatizzazione del servizio di trasporto passeggeri su rotaia. Il 12 marzo la celebrazione degli 80 anni di SNCF è stata interrotta da un gruppo di lavoratori determinati e arrabbiati, che hanno deciso di presentarsi senza invito al cocktail dei manager della compagnia, occupando il tetto dell'edificio e il salone dove si svolgeva la kermesse, per ribadire che gli Cheminots non resteranno a guardare in silenzio governo e dirigenti sfasciare il servizio pubblico. Gli Cheminots sono il nome francese dei ferrovieri, semplicemente. Annunciati tagli alle linee minori a tante piccole stazioni sparse sul territorio nazionale, sembrano accantonati, dopo le proteste degli abitanti e degli amministratori locali delle zone rurali, e molti vedono in questa mossa un tentativo di divisione tra utenti e ferrovieri, cercando di presentare come invece urgenti e necessarie le modifiche ai contratti e alle condizioni di lavoro degli Cheminots. Nelle ultime settimane i lavoratori sono stati oggetto di una campagna mediatica squallida e diffamatoria circa i presunti privilegi di cui goderebbe la loro categoria. I diritti dei lavoratori che svolgono tante mansioni collegate al funzionamento della rete ferroviaria non possono essere definiti privilegi. Le contropartite in termini salariali e previdenziali delle quali i Cheminots sono accusati di godere sono i riconoscimenti percepiti per il lavoro usurante, i turni notturni e festivi, la responsabilità della sicurezza di milioni di passeggeri. Sono state conquistate con le lotte, gli scioperi e il sangue di tanti lavoratori e lavoratrici. Meriterebbero anzi di essere estesi ad altre categorie di salariati, che invece politici e giornalisti delle grandi testate cercano di essere contro i ferrovieri ancor prima che la loro lotta inizi. In un braccio di ferro che dura da settimane, il governo si è detto pronto a poter resistere ad un mese di sciopero, mentre giornalisti come François de Closet hanno dichiarato che gli utenti delle ferrovie saranno presi in ostaggio dagli scioperanti. Le intenzioni del governo sono di approvare la riforma prima dell'estate e per questo fare ricorso al passage en force, il famigerato 49.3, il decreto legge approvato senza discussione in Parlamento, già usato da Valls per approvare la loi Travail. La riforma che nel 2016 ha stravolto il diritto al lavoro incontrò una grande opposizione, con gli studenti alla testa di una lotta contagiosa e di lunga durata, capace di coinvolgere però solo parte dei lavoratori del paese, senza arrivare ad un fronte unitario di tutte le parti della società, come avvenne invece nel 1995. È proprio lo spettro del 95, anno in cui i ferrovieri si unirono agli studenti universitari in lotta contro i tagli del piano Juppé, trascinando tutte le categorie nello sciopero, arrivando a bloccare il paese in maniera vera e propria, a spingere il governo a creare divisioni tra lavoratori pubblici e privati, tra addetti al servizio e passeggeri. Quella a cui puntano i sindacati è invece fare appello a tutti i lavoratori e le lavoratrici, in difesa del servizio pubblico e del diritto al lavoro, sotto attacco già con i precedenti governi socialisti. Tutto in linea con i provvedimenti siglati nel 2015 da Macron, in veste di ministro dell'economia, un'uberizzazione del mondo del lavoro che arricchiti in primis le compagnie private low cost di bus a scapito proprio del servizio pubblico ferroviario. Adesso però il governo dei padroni smart dovrà fare conti con una categoria combattiva e realmente in grado di mettere in ginocchio le attività del paese. In particolare diversi sindacalisti della CGT sono fatti portavoce dell'indignazione di lavoratori e utenti del servizio di fronte agli effetti tragici della chiusura delle frontiere e della caccia all'uomo portata avanti dalla polizia italiana e da quella francese. I ferrovieri, con lettere alla dirigenza, manifestazioni, interviste, soprattutto tanti piccoli grandi gesti di solidarietà, hanno preso posizione in favore di chi rischia la vita o la deportazione, nel tentativo di attraversare il confine italo-francese. A febbraio di quest'anno, lavoratori della linea di Bordeaux hanno denunciato le politiche razziste di SNCF, con una circolare che deve identificare ogni gruppo di migranti in viaggio e di raccogliere generalità, età e informazioni su provenienza e destinazione. I ferroviari chiedono insomma di poter svolgere la loro missione, quella di cioè garantire il diritto ad un viaggio sicuro dalla partenza all'arrivo per chiunque si trovi in possesso di regolare titolo di viaggio, e considerano un disonore la collaborazione con il respingimento e le deportazioni di SNCF, rivendicando i sacrifici dei tanti appartenenti alla categoria nella resistenza al nazismo. È una battaglia che per vincere ha bisogno dell'appoggio degli utenti del servizio e di tutta la società civile. Le adesioni degli studenti e degli altri settori del servizio pubblico alla giornata di sciopero e alla manifestazione che si terrà a Parigi il 22 marzo sono un importante segnale in questo senso. Mentre gli intellettuali di sinistra si preparano a commemorare i 50 anni dal maggio 68, un attualissimo conflitto sociale potrebbe oscurare la celebrazione fino a se stessa e di chi vorrebbe rendere vintage l'opposizione sociale, per meglio reprimere le lotte presenti e le future. La mobilitazione degli cheminots non potrà passare inosservata, e se riuscisse ad unire studenti e lavoratori già prima del grande corteo unitario internazionalista previsto per il 1° maggio nella capitale, potrebbe far davvero deragliare la riforma presentata dai dirigenti della compagnia e del governo. Manifestazione che a Parigi ha visto comunque l'adesione di 50.000 persone, quindi è andata molto bene. Ora siamo veramente col fuoco al culo, sì. Quindi passiamo rapidamente a... No, a nient'altro, siamo in chiusura. A nient'altro? No, aspetta. Due parole sulla Catalogna, dove comunque sono successe cose abbastanza importanti, almeno da dover essere nominate. Non ci sarà musica finale. Ok, non ci sarà musica, ma per l'informazione possiamo fare anche questo. Ieri sera infatti è stato arrestato l'ex presidente della Catalogna, Puigdemont, quello che aveva detto il referendum costituzionale per l'indipendenza della Catalogna. È stato arrestato in Germania, dove si trovava in transito per andare dalla Danimarca al Belgio, che è l'unico stato europeo che ora come ora gli garantisce un'effettiva sicurezza dalla possibile richiesta di estradizione. Non è ancora ben chiara la sua posizione giuridica. Comunque la polizia tedesca l'ha arrestato sotto indicazione dei servizi segreti spagnoli. Bisognerà vedere se per lui sarà spiccato un mandato di cattura internazionale, che per ora è ancora assente. Intanto il quadro catalano si infittisce, perché a questo arresto comunque è scattata una forte manifestazione popolare che ha visto in piazza in poche ore più di 10.000 persone. Ci sono stati anche scontri con la polizia, e quello che viene chiesto a gran voce è lo sciopero generale. Quindi è probabile che si vada verso uno sciopero generale a oltranza finché non si sbloccherà la situazione catalana. Situazione che vede sempre più coinvolta il ruolo della magistratura spagnola, che infatti sta continuando a porre veti su l'elezione del presidente della Generalitat catalana. Recentemente anche Ordi Sanchez, un altro indipendentista, è stato interdetto da poter presiedere anche solo telematicamente alla sua elezione a presidente, perché si ritiene che una volta assunta tale carica potrebbe reiterare il reato di sedizione, per il quale si trova in prigione da mesi. Quindi è sicuramente una piazza calda che dovremo continuare a seguire, e che già nelle prossime ore potrebbe vedere degli sviluppi interessanti. Molto bene, siamo davvero in chiusura. Stavo cercando qualcosa perché ho trovato in realtà al volo una... non è una notizia, è un post Facebook. Stavo cercando una notizia, quindi vi invito a farlo, dato che non abbiamo il tempo, rispetto al fatto che le YPG hanno fatto esplodere il principale arsenale turco ad Afrin, quindi distrutti i carri armati e neutralizzati, pare, 9 militari turchi jihadisti. Niente, quindi siamo in chiusura, vi lasciamo, ci sentiamo la settimana prossima, sempre da mezzogiorno, 10:30. Ricordiamo appunto Radio Wombat, ci potete ascoltare su wombat.noblogs.org oppure in onde medie alla frequenza 1359. E dalla settimana prossima avremo un attimo strutturato meglio anche questo sistema di messaggi, per cui potete comunicare con noi e darci una mano nell'informazione. Grazie mille. Vi invitiamo ad ascoltare ora Senza Frontiere, che affronterà uno speciale sulla Palestina, quindi non abbandonate Radio Wombat, che è ancora per tutta la giornata, vi terrà compagnia con interessantissimi programmi. E noi ci vediamo lunedì prossimo.